Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, nonché naturalmente l'ascolto può essere fatto anche attraverso il web con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito della radio, radiocittafujiko.it appunto. Scusate il brutto gioco di parole. Ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 Città Fujiko Live Club si propone di farvi ascoltare musica registrata dal vivo, musica rigorosamente ufficiale, a parte qualche caso rarissimo, e che si propone appunto di far ascoltare musica proveniente da tutte le parti del mondo e di quasi tutti i generi. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una cover, con una novità che appunto in ogni trasmissione inizia la prima parte e dà il motivo che domina la prima parte della trasmissione. Oggi la novità riguarda un artista che a me piace tantissimo, un artista tutto tondo, come si suol dire, perché oltre ad essere un'ottima cantante, una brava chitarrista, ha scritto anche dei libri ed è una paladina dei diritti civili. Lei si chiama Melissa Etheridge, viene da un paesino, si fa per dire, una cittadina, diciamo, del Kansas, che si chiama Leavenworth ed è attiva fin dal 1985. Dicevo che è una paladina dei diritti civili perché oltre ad essere, come dicevo, un'ottima musicista, un'ottima cantante, nel 1993, scusate, il suo coming out fece abbastanza scalpore, fu una delle prime artiste a farlo e per cui da quel momento è diventata un'icona per tutto il movimento LGBTQ e tutto quello che ne segue. Più lei si è appunto interessata in prima persona per difendere i diritti civili di tutti i generi. Nel 2004 purtroppo le è stato diagnosticato un cancro al seno che per fortuna ha superato con delle cure. Lei dice che è stata molto aiutata durante queste cure dall'uso della marijuana, perché appunto, come sappiamo tutti, è un palliativo che può aiutare in questi casi. Ha fatto nel corso della sua carriera 7 album live. Oggi vi faccio ascoltare, vi propongo quello che è l'ultimo. Si chiama I Am Not Broken, live from Topeka Correctional Facility. Come dice il titolo, maldestramente detto in inglese da chi vi sta parlando, è un album che è stato registrato al Topeka, che è una cittadina del Kansas, guarda caso, che è una prigione femminile. E non è il primo esempio, c'è quello famosissimo di Johnny Cash, ma c'è anche B.B. King, ce ne sono tantissimi, che è stato registrato questo album, I'm Not Broken, il 28 maggio dello scorso anno, del 2023. Lei fra l'altro è molto coinvolta, come ho già detto diverse volte, in queste cose e lo dimostra appunto con questo concerto, un concerto molto molto sentito. Lei fa anche dei discorsi abbastanza pregnanti, come si suol dire, prima delle varie canzoni e dimostra di essere molto molto a fianco delle donne e delle ragazze che sono rinchiuse in questo Topeka Correctional Facility. Andiamo subito con la musica, però ci andiamo ad ascoltare questo brano che è uno dei più famosi di Melissa Etheridge, si chiama I Want to Come Over. I'm gonna do one of my, yeah, this is one of my hit songs. If you don't know, it's okay. Join me as I sing one of the craziest songs about basically being a stalker, okay? I know you're home. You left your light on. You know I'm here. I know you're alone. I watched the car leave. Your lover's gone. Let me Pubblico molto partecipe, naturalmente, anche perché non credo che succeda spesso nelle prigioni americane di avere in concerto una star, perché tale è negli Stati Uniti Melissa Etheridge. E I Want to Come Over, il brano che ci siamo ascoltati, e come vi dicevo in apertura, solitamente, sempre praticamente, la novità che vi propongo inizialmente dà il via a una serie di brani collegati alla novità, ispirati diciamo alla novità, che completano la prima parte della trasmissione. Quindi questa prima parte della trasmissione, appunto, sarà interamente dedicata a canzoni, brani, pezzi, chiamateli come volete, che parlano di prigione. You know, and, once again, I would never compare my experience with yours. I know we have... E andiamo ad iniziare con un prigioniero, un personaggio che è stato in prigione negli anni 60 per uso e detenzione di marijuana. Toots Hibbert viene dalla Giamaica, per cui il gioco è abbastanza comprensibile, questo fatto. Si chiama Toots Hibbert ed è attivo dal 1961 insieme alla band che si chiama Toots and the Maytals. È stato uno dei pionieri del movimento ska reggae che poi da lì, dalla Giamaica naturalmente, tramite soprattutto Bob Marley, è dilagata in tutto il mondo. Qui abbiamo Toots Hibbert in una versione un po' particolare, perché è coinvolto in un triplo CD che si chiama Dub Side of the Mule, che è un triplo CD live bellissimo, scusate, è una cosa di parte, bellissimo, dei Goth Mule. Loro spesso fanno queste lunghe serate, soprattutto come in questo caso il 31 dicembre, infarcite di ospiti. E a un certo punto, appunto, è arrivato Toots Hibbert, che ha cantato quello che è un suo classico. Il brano si chiama 5446 Was My Number, che è appunto il numero di cella di Toots Hibbert quando è stato imprigionato nel 1966. Ce ne andiamo subito ad ascoltare. Sono Goth Mule, in pratica, che accompagnano Toots Hibbert, con questo suo grande, grande classico. Hands on your head now. You don't get no hurt now. Everybody say, hey! I said two times, you say, hey, hey! If I say three times, you say, hey, hey, hey! If I say four times, what would you say if I say four times? Hey, hey, yeah! Hey, yeah! I'm in ambush. Now what I wanna tell you. Now don't none of you cats get caught smoking. 'Cause I know you do, I know you do. If you're gonna do your smoking, you better do it somewhere where no one can find out. 'Cause I don't want no judge getting his buzz off of you. Chiunque abbia letto un libro o visto un film che parla di carceri sa sicuramente che cos'è The Hole, la buca, quella dove vengono messi i ribelli, diciamo così, per intendere tutti coloro che sgarrano da quello che è il regolamento della prigione, del carcere, appunto. E questa 30 Days in the Hole, 30 giorni nella buca, ci è stata raccontata dagli Humble Pie, uno dei primi supergruppi in assoluto della storia della musica rock. Sono nati nel 1960 e sono durati pochi anni, perché poi a un certo punto Steve Marriott se n'è andato a formare per la propria carriera solista, a formare i Pact of Three, e Peter Frampton altrettanto se n'è andato per la propria carriera solista. Sono ancora attivi gli Humble Pie, l'unico membro originale, come spesso, quasi sempre succede in questi casi di gruppi longevi, ce n'è solo uno di membri originali, si chiama Jerry Shirley ed è il batterista. Qui ci siamo ascoltati appunto 30 Days in the Hole, da una registrazione effettuata per la King Biscuit Flower Hour al Winterland, che è una trasmissione radiofonica che è andata in onda per anni programmando concerti praticamente in tutte le stazioni radio degli Stati Uniti, e il tutto è stato registrato al Winterland Theater di San Francisco il 6 maggio del 1973. Questi erano quindi gli Humble Pie. It's one we haven't played in a long time. E non mi stancherò mai di dire che la versione originale, quella che durò dal 1969 al 1972 dei Cactus, che è la band che ci siamo ascoltata, dicevo non mi stancherò mai di dire che avevano un potenziale enorme. Erano una band strepitosa con un grandissimo cantante, un super chitarrista, un grande batterista e un grande bassista. Però purtroppo non hanno avuto la fortuna che avrebbero meritato. E sono ancora in giro i Cactus, però l'unico membro originale rimasto anche in questo caso è il batterista Carmine Appice, se volete fare i fighi, Carmine Appice se volete fare gli italiani. E lui è l'unico membro rimasto, anche lui era in questo brano che si chiama Parchment Farm, che è uno dei tanti centri correzionali, come si dice negli Stati Uniti, quasi tutti fra l'altro privati. È un brano del bluesman Moose Ellison, un brano degli anni 60, rifatto appunto dai Cactus il 19 dicembre del 1971 a Memphis, e inserito in questo Fully Unleashed The Live Gigs, doppio album, bellissimo. Uno dei brani più famosi che riguardano le prigioni, le carceri, è un classico che si chiama Jailhouse Rock. Lo conoscerete sicuramente, se non per la versione di Elvis Presley, sicuramente per quella dei Blues Brothers, dalla colonna del sonoro dell'omonimo film. E qui ce l'andiamo ad ascoltare, sono state fatte migliaia di versioni di Jailhouse Rock, qui ce l'andiamo ad ascoltare quella che forse è la più particolare, ad opera di un personaggio che si chiamava James Chance. Purtroppo ci ha lasciato un paio di settimane fa, e lui e i suoi Contortion però negli anni 70 ebbero un momento di notorietà, che alla fine degli anni 70 ebbero un momento di notorietà che gli dava come quella che viene chiamata la next big thing. Poi anche lì tutto si risolse in nulla di fatto. Qui abbiamo il loro album d'esordio, si chiama Bye, è stato pubblicato nel 1979 e ripubblicato, è un album in studio, e ripubblicato nel 2004 con tre canzoni dal vivo aggiunte registrate al CBGB's di New York City nella primavera del 1978. Jailhouse Rock è un classico, come vi dicevo, uscito dalla penna del duo Leber e Stoller, e in questa stralunata versione fa più o meno così. And now a little something for all of those of you who live in the past, and that's about 99% of you idiots out there. 99.4% pure idiots, and they float. We'll be right back. out of Twickenham, 1953. I was serving time for armed robbery. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow. Trouble started in cell block number 4 and spread like fire across the prison floor. I said, come on, boys, get ready to run. Here comes the warden with a your hands up in the air. You don't stop the riot, you're all gonna get the jail. Scarface Jones said it's too late to quit. Unpack the dynamite, cause I'm to tear gas got our man. We're all back in our cells. But decisamente più abbordabile la versione di questo altro grande classico a firma Labor Stoller. Il brano si chiama Riot in Cell Block Number 9, anche questo è contenuto nella colonna sonora di Blues Brothers, ma contenuto in tantissimi altri album. Anche questo ha subito diverse decine di versioni. Questa era quella dei Dr. Feelgood, un quartetto che proviene tuttora da Canvey Allen nell'Essex ed è attivo dal 1971, ma in questo caso nessun membro originale della band è presente nella formazione attuale. L'album che ci siamo ascoltati invece si chiama Live dei BBC e comprende la prima formazione, quella anche con Wilco Johnson alla chitarra, quindi il line-up originale. E fra le altre bellissime brani che ci sono, tutti più o meno grandi classici del blues, del rhythm and blues, c'è appunto anche questa Riot in Cell Block Number 9. Un'altra delle band semi sconosciute dell'enorme panorama americano si chiama Afghan Whigs, vengono da Cincinnati e sono attivi con diverse interruzioni dal 1986, capitanati da un personaggio che si chiama Greg Dooley. L'extended play che vi propongo, che ci andiamo ad ascoltare, si chiama What Jail Is Like, com'è la prigione, più o meno in una traduzione maccheronica. E il brano è contenuto in due versioni, quella che dà il titolo al standard play e un'altra versione registrata dal vivo al Mercury Café di Denver, Colorado, il 10 maggio del 1995. What Jail Is Like, loro sono Afghan Whigs. I'm Non potevano mancare in questa piccola rassegna di brani inerenti le carceri e dei Thin Lizzy con la loro Jailbreak, uno dei classici di questa formazione dublinese che è stata attiva dal 1969 al 1983, poi si è sciolta e si è riformata nel 1994. È tuttora attiva ma senza membri originali. In questo caso abbiamo Scott Gorham, uno dei due chitarristi, che è il membro con la militanza più lunga ed è attivo ed è con la band da 1974, una band che è stata una delle grandi precursori del twin guitar sound, la chitarra, la doppia chitarra raddoppiata, insomma, anche nel suono. Stay Dangerous, l'album che ha visto inserita questo Jailbreak, è stato registrato al Tower Theater di Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti naturalmente, il 20 ottobre del 1977. Ci sarebbero ancora tantissimi altri pezzi inerenti appunto prigioni, carceri, prigionieri, malfattori, gaglioffi, ma il tempo è quello che è e quindi la prima parte della trasmissione termina qui. E ci risentiamo fra qualche minuto dopo la pubblicità con la seconda. Loving yourself. just to listen to your breath. And I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache. And you don't know how much I'd give or how much I can take just to reach you, just to reach you. I cannot afford to sleep. Giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood, but I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you. Seconda parte di Città Fujiko Live Club. Oggi siamo all'11 settembre 2024, triste anniversario per quel che riguarda gli Stati Uniti. Noi invece siamo interessati alla musica e andiamo avanti con la seconda parte, che come sempre comprende ricordi today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. E anche oggi tantissime cose, per cui pochissime chiacchiere, andiamo avanti subito ad iniziare con una registrazione effettuata l'11 settembre del 1977 in quel di Londra da parte di una band che ha fatto la storia della musica britannica. Si chiamavano Jam, capitanati naturalmente dal 1972 al 1982 da Paul Weller, che poi se ne andò per formare Style Council e per una carriera solista che l'ha portato diverse volte anche qua a Bologna. I Jam hanno fatto un sacco di singoli di grande successo negli Stati Uniti e un paio, anzi di più, 4-5 adesso sinceri album live, che sono però stati tutti pubblicati postumi dopo lo scioglimento del dicembre del 1982. Qui abbiamo Foreign Skills, che è un box set, un cofanetto con 6 CD che contiene 6 concerti che rappresentano tutta la carriera della band. Infatti questo è il primo, sono gli esordi dei Jam, gli esordi a Londra al 100 Club, il locale che è su Oxford Street e che appunto è un piccolo locale che aiuta le giovani band a lanciarsi. I Jam qui erano già abbastanza lanciati e questo concerto appunto è stato inserito in Fire and Skills. Tutto registrato l'11 settembre 1977, questo è un grande classico della band. I've learned to live by wits and faith. It's my years through wasting time. I've learned more than you ever know. Even school I felt quite so. One day I will be on top. And I'll be down from my bed cry. It takes us to say that people think, yeah. This is a modern world that I'm gonna find. This is a modern world that don't be the one to tell us what's right or wrong. Appunto, This is the Modern World, un grande classico dei Jam, e uno dei primi loro grandi successi, nonché title track del loro primo album e nonché titolo della canzone che ci siamo ascoltati da questo concerto al 100 Club di Londra dell'11 settembre 1977, è contenuto in un sestuplo cofanetto che risponde al nome di Fire and Skills, consigliatissimo. Arriviamo agli anni 80, esattamente al 1981, con un grande vecchio della musica rock britannica e non solo britannica, un po' di tutto il mondo e di tutti noi. Si chiama Ian Hunter, ha 85 anni, è ancora in giro, è ancora pubblicata dischi, ne sono usciti un paio recentemente, è stato anche in Italia recentemente in concerto. Lui però arriva da un paese un po' strano che si chiama Oswestry, nel Shropshire, un posto che non avevo mai sentito nominare, in Gran Bretagna, ed è attivo dal 1958, quindi capirete che ne ha di masticata. E dopo diverse bands nella prima parte della sua carriera, bands abbastanza, anzi totalmente anonime, entrò nei Motley Hoople, nel quale è rimasto dal 1969 al 1974. Naturalmente conoscete tutti la connessione fra David Bowie e Motley Hoople. David Bowie regalò All the Young Dudes, che divenne il più grande successo dei Motley Hoople, che stavano fra l'altro per sciogliersi. Anche qui abbiamo un cofanetto, però sono solamente 4 CD, 3 sono album che erano già usciti, fra cui il live Welcome to the Club. L'ultimo invece è un live inedito, il quarto dischetto, appunto un live inedito, che è stato registrato al Dr. Pepper Music Festival a New York City, qui ritorniamo appunto a New York, l'11 settembre del 1981. Super classico Prehan Hunter, ve l'ho già fatto ascoltare tante volte ma non mi stanco mai né di proporlo né di ascoltarlo. Just Another Night. Sempre molto coinvolgente questo, sempre molto coinvolgente questo classico di Ian Hunter, si chiama Just Another Night, forse l'avrete capito visto che lo ripetono quel centinaio di volte, e il tutto registrato in quel di New York City l'11 settembre del 1981, e che è contenuto, come vi dicevo, in questo cofanetto che si chiama From the Knees of My Heart, che contiene tre album ufficiali già pubblicati e questo live inedito che è veramente uno spettacolo di musica rock completo. E una delle diverse diramazioni, delle tante diramazioni della musica rock, è quella che è stata definita gothic rock o goth rock, come volete. Goth naturalmente è l'accorciatura di gothic, e i campioni di questo genere sono senz'altro i Bauhaus, grandissima band che viene da Northampton. È attiva dal 1978, ha avuto diverse interruzioni perché spesso i membri della band, soprattutto il chitarrista e Peter Murphy il cantante, Daniel Ash il chitarrista, Peter Murphy il cantante, non vanno molto d'accordo, però poi come sempre quando il conto va in rosso si appianano tutte le diatribe e si va a suonare, però come sempre il fuoco, diciamo così, originale, quello della band dal 1978-1983, non ritorna più. Hanno fatto 5 album dal vivo più una serie di instant records. Qui abbiamo un doppio dischetto che si chiama Gotham, perché è stato registrato a New York City, che come ben sapete è la città di Batman, per cui Gotham City diventa New York City per unione, diciamo, per comunione. Il tutto è stato registrato l'11 settembre del 1998. Il brano che vi propongo si chiama She's in Parties, Bauhaus. Yeah. of the storm. Like skipping a beat. Whatever great wave should wash us all away, just thinking out loud. I don't mean to dwell on this dying thing, but look at my blood. It's alive right now, deep and sweet within, pouring through my veins. Oh, intoxicate, moving wine to tears, and I'm drinking it deeply. On this evening spent dancing, it's you and me. Oh, this love will open our eyes. From the dark side we can see the glow of something bright. There's much more than we could ever know. Oh, so don't burn the day. This blessed sip of life, is it not enough? Staring down at the ground, then complain and pray. I need more from above, like a greedy little pig. Stop, just watch the world tickle away. Oh, but it's your problem now. We'll all be dead and gone in a few short years. Oh, just love will open our eyes. Only love can put the hope back in our minds. Much more than we could ever know. Oh, so don't burn the day away. Come to an end. Negli Stati Uniti c'è una serie di bands che in Italia sono praticamente sconosciute, che girano continuamente suonando tutte le sere lunghi concerti, alternando i brani, facendo concerti sempre diversi l'uno dall'altro, e che vengono denominate jam bands. Una delle migliori jam band in assoluto è quella che ci siamo ascoltati adesso, si chiama Dave Matthews Band, naturalmente capitanata da Dave Matthews, che è il cantante e chitarrista, chitarra d'accompagnamento, diciamo, più che altro. Loro vengono da Charlottesville in Virginia e sono attivi dal 1991. Hanno cambiato diverse formazioni, ma rimangono sempre leader. Loro riempiono veramente stadi e stadi e stadi con centinaia, anzi decine di migliaia di persone, per meglio dire. E fra l'altro li abbiamo visti in uno splendido concerto il 19 aprile scorso a Milano, 3 ore di grandissima musica, fra l'altro un suono impeccabile una volta tanto, e sono veramente incredibili. Loro hanno fatto un sacco di live albums, logicamente, perché il live è la loro vita, è il loro humus, e oltre a quelli ufficiali hanno una serie in proprio che potete trovare sul loro sito, che si chiama Tracks, e che adesso è arrivata a un numero esorbitante, più di 60, considerate che sono tutti praticamente dischi tripli. Quello che ho tra le mani invece è doppio, si chiama Weekend on the Rocks, è il secondo album che la Dave Matthews Band pubblica, registrata a Red Rocks, il grande e bellissimo anfiteatro che è a Morrison in Colorado, e il tutto è stato registrato l'11 settembre del 2005. Il brano che ci siamo ascoltati, tra l'altro, molto fa sorridere, perché evidentemente stavano facendo un barbecue, perché il brano si chiama Don't Burn the Pig, non bruciare il maiale, cioè non bruciare le costolette, non bruciare, insomma, fai una cosa fatta per benino. Dave Matthews Band, 11 settembre 2005, Don't Burn the Pig. Stars that fill the sky, I wonder if... Conosciutissimi invece da tutti sono i Pogues, anzi erano oramai i Pogues perché non esistono più oramai dal 2014, e loro sono anche loro sciolti un paio di volte, soprattutto quando Shane McGowan, il cantante, non stava propriamente bene, e cercarono di sostituirlo con Joe Strummer, ma con tutto rispetto, anzi tutto l'amore, per dire il vero, per Joe Strummer non era assolutamente la stessa cosa. Qui abbiamo un concerto per il 30° anniversario della band, si chiama The Pogues Live in Paris, che stranamente è stato registrato in Francia. Non ho capito bene questa mossa, ma mi fido. Fra l'altro c'è da dire che i Pogues sono considerati un emblema della musica irlandese, ma in realtà gli irlandesi all'interno della formazione erano pochi, la maggioranza era britannica, ma questo è un discorso che lascia il tempo che trova, perché la musica era completamente irlandese. Questo, come dicevo, è stato registrato alle Olimpiadi di Parigi in Francia l'11 settembre 2012. Ci presenta lo stesso Shane McGowan il brano che vi faccio ascoltare. This is for him. In 1841, me corduroy breeches I put on. Me corduroy breeches I put on to work upon the railway, the railway. I'm weary of. On the railway, 1842, for the hardy crew of the crew, there was so much other to do working on the railway. I was wearing sorry, but the digging to the pillars of the dungeon and the side. We were working on the railway, 1843, I brought me soul across the knee. I landed on sleeping on the railway, the friggin' railway. I'm sick to my guts on the railway. Poor buddy works on the railway. Poor Paddy was thinking of going to heaven. Poor Paddy was thinking of going to heaven. So work upon the railway, the fucking railway. Was sick to my death on the railway. Poor Paddy works on the railway. In realtà Shane McGowan non ha presentato niente, perché la sindrome di Nevio ha colpito ancora quando sono indeciso fra due brani da pubblicare, da far ascoltare. Ne presento uno e ne faccio ascoltare un altro. In questo caso non avevo detto il titolo, per fortuna, ma andiamo con questo brano, sempre secondo me molto bello, che si chiama Poor Paddy on the Railway, un classico minore, diciamo così, dei Pogues, ma sicuramente esplicativo di quella che era la loro musica. Infatti è il brano finale del concerto normale del loro 30° anniversario, immortalato in questo Imperius, registrato l'11 settembre del 2012. A concludere Città Fujiko Live Club e Recorded Today di oggi arrivano gli immensi King Crimson. Hanno un parco, diciamo così, di registrazioni live infinito, per cui spesso e volentieri arrivano in questa trasmissione e in questa rubrica. Qui abbiamo un album che si chiama Music is Our Friends. È stato registrato principalmente all'Anthem di Washington l'11 settembre del 2021. Più ci sono un altro 4 brani che invece sono stati registrati ad Albany, nello stato di New York, ma a noi interessa appunto la registrazione di Washington, 11 settembre 2021. Prima di concludere però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore scarsine di musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca, ogni mercoledì alle 10.30 o quasi. Poi la prossima settimana vi spiegherò che ci sarà un piccolo break, ma comunque intanto vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei King Crimson e della loro Red. Ciao a tutti da Nevio.